Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Poi, al nostro ritorno, non vedremo l'ora di raccontarci com'è andata. E io parlerò di partite e di pallone, di grigliate che non riescono e della pioggia che ci ha perseguitato su tutto il lungomare di Grado. E non ti dirò che non ho fatto che pensare a quando te l'avrei raccontato. E cercherei di farti ridere, esagerando come sempre. E tu rideresti stringendoti nelle spalle. Sarà una grande primavera, questa primavera. Allora, sarà una grande primavera questa primavera e ringraziamo Antonello per averci mandato il suo racconto. Lo ringraziamo anche per aver declinato l'invito a partecipare. Ogni tanto capita. Io, Marghe, non ho capito esattamente i motivi per cui Antonello non ha voluto partecipare, però questioni personali. Ah, non voleva farsi pubblicità. Non voleva farsi pubblicità. Tu pensa, siamo nel 2012 e c'è qualcuno che non vuole farsi pubblicità. Bravo Antonello. Vabbè, ciononostante il racconto di Antonello è un racconto molto bello che parla di primavera, parla sì di una primavera astronomica e meteorologica per qualche modo, per qualche verso, ma parla soprattutto di una primavera, della sensazione di primavera che tutti noi abbiamo vissuto e che viviamo nell'arco della nostra vita, da giovani, da meno giovani e per qualsiasi situazione o per qualsiasi avvenimento che ci faccia tornare un odore di primavera. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it, ma anche il profilo Facebook del programma che è cambiato semplicemente nel nome dopo un anno di Matteo Caccia, io sono qui, è stato finalmente reso conforme e per questo ringraziamo gli amici, posso dire gli amici anche se non ci conosciamo. Si dice sempre gli amici, dai, vuoi che non abbiamo degli amici là. Gli amici di Facebook Italia che ce l'hanno reso finalmente conforme al titolo del programma che è Matteo Caccia, voi siete qui. Quindi ci troverete, e proprio guardate, ci hanno mandato una mail giusto un attimo prima della diretta. E quindi ci potete trovare facilmente in questo modo, cercando Radio 24, voi siete qui Facebook, oppure dal profilo, dal sito della radio attraverso la nostra home page. Perché si parla di questo oggi, cioè si parla di quello che ci ha raccontato Antonello, della primavera della vostra vita. Vi faccio un esempio di alcuni messaggi che sono arrivati sul profilo del programma, che sono i miei anni dell'università a Pavia sono stati la primavera della mia vita. E poi Angelo, i 5 anni all'istituto ITCG, che vorrà dire Istituto Tecnico Commerciale, no, se è commerciale non è geometri, Istituto Tecnico Commerciale G. Luigi Einaudi di Magenta, entrato ragazzino, uscito uomo e ragioniere, e con che fierezza. E poi ancora Valentina, la mia primavera è adesso che aspetto una bimba e mentre le stagioni seguono il loro corso il mio corpo segue una primavera tutta sua che culminerà a novembre. 349-238-6666, qualunque sia la vostra primavera. Devo dire che in realtà oggi, per suono, per clima, per storia che raccontiamo, oggi è proprio una puntata dedicata a tutti gli studenti, a quelli che stanno preparando degli esami, che sia l'esame di maturità, di cui vi ricordo la serata speciale che andrà in onda, proprio la sera del live di Voi Siete Qui, andrà in onda in diretta su Radio 24, Federico Taddia con la serata che c'è da 3 anni a questa parte ormai, che si chiama Notte Prima degli Esami, in cui ci saranno diversi ospiti che racconteranno la loro notte prima degli esami, proprio perché è del 20 di giugno, giusto? La prima prova scritta all'esame di maturità. Quindi se siete degli studenti che state preparando l'esame di maturità o state preparando gli esami all'università, qualunque sia la vostra condizione, se avete la percezione, provate a fermarvi 5 secondi, se avete la percezione di essere in qualche modo in una primavera della vostra vita, magari la prima, ce ne sono poi sicuramente diverse. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Oggi è la puntata per voi. Prima di cominciare però andiamo alle comunicazioni ufficiali. La comunicazione ufficiale è che il live del 19 di giugno qui dalla sede di Radio 24 in via Monterosa 91 è ufficialmente sold out. Questo significa che non ci sono più posti. I posti sono già, sono già tutti occupati, banalmente, molto semplicemente. Le prenotazioni sono cominciate 3 settimane fa e sono andati tutti esauriti. Paolino giustamente dice: neanche Madonna, l'unica differenza è che Madonna è a San Siro e noi siamo alla Sala Collina. Però Insomma, quindi la vostra richiesta, perché non riesco più a prenotarmi attraverso il sito della radio, la risposta è semplicemente perché purtroppo non ci sono più posti. Però la novità, oggi ci sono un sacco di novità, per tutti quelli che volevano prenotarsi e non fanno più in tempo, per tutti quelli che invece non potevano prenotarsi perché stanno lontani e se lo sarebbero perso, la verità è che dal sito di Radio24 ci sarà un live streaming di tutta la serata. Video, giusto? Ci sarà un video live streaming di tutta la serata. Non so quanto possa essere divertente, però se avete voglia di sentire qualche pezzo della serata, se avete voglia di provare ad assaporare l'atmosfera del live, ci sarà una telecamera fissa, immagino. Immagino non ci sia una regia, giusto? Ci sarà una camera fissa. Forse c'è una regia. C'era più di una telecamera l'anno scorso. Va bene, insomma, ci sarà un live streaming in diretta a partire dall'ora in cui comincia lo spettacolo fino alla fine dal sito di Radio 24. Da qui a martedì prossimo vi diremo meglio come cosa succede e come ci arriviamo. Vi ricordo l'indirizzo della radio è www.radio24.it per arrivare, per vedervi lo streaming e per accedere alla pagina del programma. Da cui potete, ecco, l'ultima cosa, quelli che vengono, che si sono prenotati e hanno in mano la loro copia della prenotazione, stampatevi anche quello che abbiamo chiamato il segnaposto, che in realtà è un giochino che ci teniamo per il finale della serata. Ve lo stampate possibilmente a colori in tutti i formati che volete e ve lo portate dietro. Oggi però si parla di primavera, si parla della primavera della vostra vita, qualunque essa sia stata, che sia stata oggi, che sia stata ieri o che sarà domani. Sarà una grande primavera questa primavera. Metterò i pantaloncini corti appena posso, già a maggio, anche se qualche professore si lamenterà, perché non è decoroso che si venga a scuola in quelle condizioni. Ci sarà un lungo ponte di Pasqua e noi non stiamo veramente insieme, quindi chissà se ci sentiremo. Magari mi chiamerai per farmi gli auguri, ma non credo. Tu cosa fai a Pasquetta? Non so, penso andrò in montagna a camminare con i miei. Tu? Beh, Saverio ha appena preso la patente. Credo andremo da qualche parte con la macchina. Poi, al nostro ritorno, non vedremo l'ora di raccontarci com'è andata. E io parlerò di partite e di pallone, di grigliate che non riescono e della pioggia che ci ha perseguitato su tutto il lungomare di Grado. E non ti dirò che non ho fatto che pensare a quando te l'avrei raccontato. E cercherei di farti ridere, esagerando come sempre. E tu rideresti stringendoti nelle spalle. Sì, sarà una grande primavera questa primavera. Non è mai stato così esaltante seguire il campionato. Il grande Bari di Fascetti vince a Milano, recupera a Cagliari e mi tiene incollato alla radio tutte le domeniche. A te però il calcio non interessa. Dici tu, ti piace Maldini ma solo perché ha gli occhi azzurri. Per questo anche tu ti fi il Bari. Mi chiami la sera, dopo il 90° minuto. Allora Anto, abbiamo vinto? Non me ne frega di nient'altro, lo so bene. Passerò i pomeriggi con le cuffie nelle orecchie, battendo tutti i record di campo minato, mentre consumo il CD di Cortocircuito. E aspetterò, fisso sul canale 18, dove ci parliamo noi altri del quartiere. Poi tu mi farai due portanti ravvicinate. Mi chiamerai con un filo di voce e ce ne andremo sul 32 FM. Lontano dai curiosi della banda, per parlare dei fatti nostri. Ci metteremo d'accordo come ogni pomeriggio e ci vedremo sotto casa tua, sempre alla stessa ora, facendo come se fosse ogni volta una contrattazione, una decisione presa in base alle circostanze. Guai a dirti come sempre, l'ho fatto una volta e pensavi già che qualcosa non andasse e dovessimo smettere di vederci per un po'. Da allora non lo faccio più, non mi pesa. Saranno settimane di magliette preferite, niente gel sui capelli, panchine sempre più strette e lunghissime lettere e racconti scritti durante le interrogazioni di storia e di filosofia. Quelli li scriverò io, che ormai non faccio altro, tanto il voto ce l'ho già. Arriveranno i film che non abbiamo mai finito di vedere, le gite serali alla casa distante in cui ti stai per trasferire, che vabbè, per quella volta avrò la macchina. Le tue prove di veganismo e quella sera al castello di Fagagna. Mi godrò quel sottile piacere del sabato, io che esco un'ora prima. Ti verrò a prendere davanti a scuola, fra i ragazzini in motorino che aspettano le loro bimbe e quegli sfigati dell'istituto tecnico che passano lì davanti solo per guardarvi, facendo finta di essere lì per caso. Sarà una primavera da testa sul banco, aspettando gli esami di maturità. Da mal di stomaco, quando non ci vediamo perché devi capire qualcosa. Dall'immaginare quando mi verrai a trovare all'università, perché sarà tutto tale e quale, come adesso. Poi arriverà l'estate e tu andrai via dicendomi che non ti sei mai sentita così bene. Come spesso succede, tu tornerai. E come accade solo a volte fra le persone, avrai altro per la testa. Sarà un'estate calda, io non mangerò per 3 giorni e piangerò a lungo. Poi al quarto mi deciderò per un ghiacciolo, ma lo vomiterò subito. Sarà una grande primavera, la primavera del 99. Lo so, oggi fa caldo e la stagione che sta arrivando è l'estate. Però Antonello ha scritto adesso e quindi mi tocca parlare di primavera proprio quando sta per finire. Che però in fondo è anche bello parlare di una cosa quando è passata. È meno faticoso. Anche perché la primavera di cui lui parla non è quella delle primule o delle graminacee. È un'altra primavera. La primavera è quel momento dell'anno in cui la natura si risveglia dopo l'inverno, inverno in cui ha riposato. È quando gli orsi si svegliano dal letargo e il polline fa venire il raffreddore. È quando gli alberi si preparano a fare frutta e i campi di grano diventano gonfi. È il sabato del villaggio. È quando il meglio deve ancora arrivare, ma tu sai che sarà bellissimo. Perché la primavera gira come tutte le cose della vita. Prima bene, poi male e poi ancora bene. Prima caldo, poi freddo, poi ancora caldo. Luce, buio e ancora luce. Ed è così che affrontiamo le diversità. Con la fiducia nel futuro, che poi è la memoria del passato. E ognuno ha le sue primavere, che cambiano con il passare del tempo. E soprattutto ci sono momenti della vita in cui è primavera anche se è freddo e buio. Perché la primavera è quel risveglio di energia che ci sembrava svanita e invece si era solo addormentata. La primavera è il liceo, quando vivi un presente che ti sembra eterno, perché la mente sogna un futuro pieno, forte e produttivo. La primavera è ogni volta che ti innamori, che prima eri certo di essere diventato arido, duro, e invece no. La primavera è quando vedi un maledetto cucciolo di qualsiasi animale e lo prendi in braccio, e non è tuo e non te lo aspettavi, ma senti qualcosa che ti pizzica la schiena ed è la voglia di tenertelo e dargli da mangiare, dargli un nome, accarezzarlo, che quasi ti vergogni a farti vedere così. La primavera è quando dall'altra parte del telefono c'è qualcuno che alla tua domanda risponde semplicemente con un sì e tu non eri pronto. La primavera è quando ti accorgi di aspettare un bambino e tutto il mondo ti fa capire quanto la tua vita cambierà in peggio perché dormirai di meno, non avrai più tempo per te, sarai sempre preoccupato che stia bene, che tu possa mantenerlo e che sia felice, sempre. Eppure sai con certezza che sarà splendido e nuovo. La primavera è una promessa continua, la primavera finisce sempre. Ma una cosa è certa, che prima o poi ritorna. Sembra uno speciale Battiato la puntata di oggi, eh? C'è qualcuno in redazione a cui piace Franco Battiato. Carlo mi scrive: la mia primavera, caro Matteo, la mia primavera è stata la possibilità di poter rinascere. Sono disabile dalla nascita per via di una spina bifida e ho passato i primi 20 anni della mia vita con enormi problemi per camminare. Grazie a mio nonno, che non aveva mai smesso di cercare una soluzione, sono arrivato in una clinica a Roma dove ho avuto 2 interventi miracolosi che mi hanno permesso di poter camminare come quasi tutti. È da quel lontano 1990 che la mia vita è cambiata completamente. Non mi sono più fermato ed è ancora tanta voglia di poter cercare almeno in parte di recuperare 20 anni della vita che ho perso. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Mi spiace per quelli che scrivono, non avevo ancora deciso quando prenotarmi e adesso non posso più fare in tempo. Lo so, la vita è complicata per tutti, però ci sono un tot di posti e più di così non possiamo andare, non possiamo riempirlo per questione di sicurezza. Però, visto che ci sono molte persone che sono rammaricate per il fatto di non poter venire al live perché non si sono prenotate, e ci sono moltissime persone che pensano che l'evento di questo giugno 2012, se qualcuno pensa che l'evento del giugno 2012 è il live, sono problemi suoi. Ci sono altri che pensavano fosse il concerto di Bruce Springsteen, altri ancora il concerto di Madonna questa sera, ma ci sono poche che lo sanno, che l'evento di questo giugno è un altro. Questo è uno di quegli eventi nascosti di cui si sa poco, che sono assolutamente segreti. Noi abbiamo fatto di tutto per tenerlo segreto fino ad oggi, però ci siamo guardati in faccia di là in redazione e abbiamo pensato che fosse giusto raccontarlo a tutti. Sapete che alle 18 gioca l'Italia oggi contro Croazia. Oggi gioca Italia-Croazia, ma alle 22 di questa sera, lo dico per tutti quelli che sono a Milano o zone limitrofe, come si diceva a scuola quando si arriva arrivavo in ritardo. Prof, arrivo da una zona limitrofa. Per tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa di interessante questa sera, e vedo che tutta la redazione di Lines 2 in regia è d'accordo con me, questa sera ci sarà una partita, la prima, diciamo, partita ufficiale all'interno del team di questa radio, e questo è il suo promo ufficiale. Calcio Marcio, Scommessopoli, Balotelli e Raffaella Fico. Il grande calcio ti ha rotto? Dacci un taglio. Scende in campo Euroradio 24, la partita dell'anno. Redattori e tecnici della più grande radio del mondo in mono si sfidano nella partita che non ha un domani. Giovedì 14 giugno, ore 22, al Centro Sportivo Catozzi di via Cristoforo Madruzzo 3 a Milano. La parte nobile di Radio 24, più qualche figurante di passaggio, tipo Michele Previato, Matteo Caccia e Alessandro Milan, in campo per l'evento che sconvolgerà le vostre esistenze. Gloria eterna per i vincitori, spazzatura per gli sconfitti. Non prendere impegni per giovedì 14. Voi siete qui. La mia più bella primavera, scrive Margot al 349-238-6666, è stato quando ho visto Gualtiero e me ne sono innamorata. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it. Arrivano molti messaggi che hanno lo stesso tenore a proposito di primavere, che non siano primavere meteorologiche, e hanno a che fare con la nascita, che non è una rinascita, ma è di fatto una forma di rinascita quando, immagino, ti nasce un figlio. Ne leggo uno su tutti. Armando: il 2 febbraio è cominciata la mia primavera. Sono diventato genitore. Questa primavera ha curiosamente contrastato con il clima che dal 3 di febbraio ha fatto abbattere su Pescara tanta neve quanto non aveva fatta forse nei 100 anni precedenti. Sono 4 mesi che ci penso a questa primavera tutti i giorni, quasi tutti i momenti, e scopro che a farmela essere davvero primavera è che per la prima volta percepisco davvero che il tempo va solo in avanti. Che è un bel modo per vedere le cose. Armando da Pescara. Oggi avevo un sacco di robe da leggervi a proposito della primavera, però non ce la faccio perché il tempo è sempre quello. Allora, con Tiziano e Paolino abbiamo pensato di fare questa cosa. Ve ne leggo una, che è tratta da un libro meraviglioso pubblicato da EDT, che si chiama Gelo, avventura nei luoghi più freddi del mondo. È una sorta di inno alla scienza e alla vita nei luoghi freddi, alla vita sulla Terra, più o meno. E vi leggo proprio un pezzo che ha a che fare con la primavera, che molto semplicemente, per quanto riguarda gli animali, c'entra con la fine del letargo. Però è un pezzo magnifico sugli orsi che si addormentano, poi si risvegliano. Vabbè, ve lo leggo più tardi. Ce n'era però un altro meraviglioso che era molto metaforico e che ha veramente a che fare con la primavera della vita, che è un pezzo di Dubliners, da Gente di Dublino, di James Joyce. E allora, questo pezzo, che è un pezzo molto delicato, che racconta di come una ragazza dice al proprio fidanzato che le ha avuto una primavera sentimentale, abbiamo fatto una cosa: l'abbiamo creato come podcast speciale, che è già online da questo momento. Quindi, da dove? La nostra pagina? Quindi raggiungete la nostra pagina sul sito di Radio 24, radio24.it, / voi siete qui, comunque cercate Voi siete qui all'interno della pagina, e ci trovate subito questo podcast speciale. È un pezzo magnifico, è bellissimo ed è James Joyce, e più di così. Dura quanto? 4 minuti, è una cosa breve, ve la potete sorbire giusto adesso appena finisce il programma. Mentre siete lì, magari vi scaricate il podcast, però ascoltatevi questo altro pezzo che sto per leggervi, che parla del disgelo, parla del letargo e parla della primavera. Gli animali che si preparano al letargo cessano di mangiare e si mettono al riparo in una tana. Può trattarsi di un tronco cavo, un mucchio di sterpaglia, una fenditura nella roccia, l'angolo di una grotta, un giaciglio scavato nel fianco di una collina. Una volta un orso nero è stato trovato nella cavità di un albero a 30 metri dal suolo. Si sa che i grizzly scavano delle gallerie fino a quasi 10 metri nella terra. Per quanto riguarda gli orsi polari, soltanto le femmine vanno in letargo. In Alaska, la tana dell'orso polare è costituita da una grotta di neve, scavata sulla terra o sulla banchisa, ben chiusa e invisibile dopo una successiva seria nevicata. L'orso si raggomitola come una palla, la testa appoggiata alle zampe anteriori, la schiena esposta al freddo. Il ritmo cardiaco diminuisce, il respiro rallenta, l'apparato digerente si chiude per l'inverno. Il sangue si concentra nel capo e nella parte superiore del corpo. La temperatura corporea scende di circa 4 gradi. L'orso si ciba del proprio grasso estivo. I livelli di colesterolo sono alle stelle, ma senza provocare problemi al cuore. Alcuni nativi americani interpretano l'uscita dalla tana come una forma di rinascita. Di norma, i maschi riemergono per primi, poi si risvegliano le femmine con i cuccioli. Gli orsi appena riemersi dal letargo sembrano indolenziti, procedono zoppicando come anziani. Si stiracchiano, fiutano qua e là, sbadigliano e si grattano. Hanno sete, ma non pensano immediatamente al cibo. Quando torna loro l'appetito, si cibano per prima cosa di radici e di erba, rimettendo in funzione un apparato digerente addormentato. Il possente orso polare, che spesso viene ritenuto un carnivoro puro, viene talvolta visto scavare nella neve, con le zampe, per cibarsi di insalata congelata appena fuori dalla propria tana. Quando gli orsi ricompaiono in primavera alla rinascita, talvolta pesano appena la metà rispetto all'autunno precedente. Ieri con le lacrime agli occhi ho visto una nuova primavera. Non erano fiori, ma tante gru tra le macerie del terremoto. Stiamo ricominciando. Ciao Oscar. In bocca al lupo a tutti quelli che ci ascoltano da là e che continuano a scriverci. 349-238-6666. Voi siete qui, @radio24.it, per continuare anche fino a domani. Domani ufficialmente chiudiamo le votazioni. Il racconto che avete preferito e che volete sentire raccontare di nuovo al live di martedì prossimo alle 21 qui a Radio 24. Vi chiedo di farlo perché appunto avete solo un giorno, rimane solo un giorno, e perché cominciano a essere più o meno chiare quali saranno i 10 racconti che verranno letti, ma sciogliamo però il dubbio solo domani, direi, quando chiudiamo definitivamente le votazioni. Uno tra i più votati era uno a cui sono particolarmente affezionato, che si intitola Non sono un supereroe, è andato in onda il 6 di novembre e l'autore si chiama Federico Bernocchi. Avevamo preso la strada da sotto, per cui adesso per raggiungere il nostro appartamento c'era da fare una lunga salita. A un certo punto, tra un vroom vroom e un altro, dico a mia mamma: «Mamma, lo sai che sono un extraterrestre? Sono nato su Marte e so volare? Guarda, sparo i raggi dalle mani, piu piu!» Lei mi ha guardato con tutto l'amore del mondo e mentre faceva fatica a portare i sacchetti di plastica per quella lunga salita sotto il sole di agosto mi ha detto: «Davvero? Che bello!» Era stanca e aveva uno strano tono nella voce, un tono che adesso che sono vecchio so che si chiama accondiscendente. E allora mi sono fermato un secondo e ho capito che non era vero. Non ero un alieno e non avevo nessun superpotere. Voi siete qui, @radio24.it, per continuare a votare il racconto che volete risentire. Vi ricordo che se non riuscite a venire perché non c'è più posto, perché siete lontani, ci sarà uno streaming live in diretta dal sito di Radio 24. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Antonello e parlava di primavera. La storia di domani è la storia di Laura e parla di immaginazione. Oggi piove, quindi Jane, la magnifica cavalla bianca che di solito uso, è dovuta restare a casa. Mentre stamani la stavo salutando, mia sorella, quella grande, mi ha detto: «Quella non è un cavallo, è una bicicletta». Poveraccia, si vede proprio che ormai è un'adulta.